voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. I miei cani dovevano essere qui 40 minuti fa. Ora non c'è nemmeno il tempo di fargli la toilettatura. Non si deve preoccupare, signora Katzenburger. Kalzenboren! Kalzenboren. E questi botoli non hanno bisogno di una ripassata. E sa perché glielo dico io? Perché li ho lavati e tosati tutti io stesso. E le garantisco che può stare tranquilla. I think that if you were falling in space, you would slow down after a while or go faster and faster. Faster and faster. For a long time you wouldn't feel anything. Then you'd burst into fire. Forever. The angels will help you, 'cause they've all gone away. My mind crying, if I'm lying, I'm dying, shit. This is a sign of what you don't know, killing you. This is a sign of what you don't believe, still true. This is a sign of what you don't want, killing you. DPC, motherfucker, cop a filler too. This is a sign of what you don't know, killing you. This is a sign of what you don't believe, still true. This is a sign of what you don't want, killing you. DPC, motherfucker, cop a filler too. Furiously ruthless, justice for my very own amusement, but no regard for the conclusion. I In other words, I'm trash, glad you asked. This is the sound of what you don't know, killing you. This is the sound of what you don't believe, still true. This is the sound of what you don't want, stealing you. DPC, motherfucker, cop a feeling too. This is the sound of what you don't know, killing you. This is the sound of what you don't believe, still true. This is the sound of what you don't want, stealing you. DPC, motherfucker, cop a feeling too. Seconda parte del primo volume di Eclettica, che si è aperta con la prova di un artista hip hop di pelle bianca. Arrivato ad una nuova prova dal titolo I'll Sleep When You Are Dead, che sta caratterizzando da qualche settimana questa parte eclettica. Tracce diverse l'una dall'altra grazie anche alle collaborazioni che vedono artisti che non sono propriamente hip hop. Infatti abbiamo ascoltato collaborazioni con Cat Power oppure anche con Trent Reznor. Quella di quest'oggi, comunque anch'essa già passata, se non ricordo male, proprio settimana scorsa, ha visto invece la presenza dei Mars Volta. Ed ora ritorniamo a scoprire il passato dei The Blow. Surrounded by girls. quel passo delle Eneadi che vuole indagare e definire la natura del tempo, si afferma che per farlo è indispensabile conoscere prima l'eternità, la quale, come tutti sanno, è modello e archetipo del tempo. Questa avvertenza preliminare, tanto più grave se la crediamo sincera, sembra distruggere qualsiasi speranza di intenderci con l'uomo che l'ha scritta. Il tempo è per noi un problema, un tremulo ed esigente problema, forse il più importante della metafisica. L'eternità, un gioco o una stanca speranza? Questo era l'incipit di Storia dell'eternità di Jorge Luis Borges. Ti hanno licenziato di nuovo? Eh sì. Vanno fuori di testa quando lasci il luogo di un incidente, sai. Sì, beh, anch'io ho perso il mio lavoro. Però tu sì che sei un fallito a vita. Non ti offendere. No, non mi offendo. Da un po' di tempo che non ci riascoltavamo i Muriel, appena passati con Stagioni, pezzo estratto dall'album della band fiorentina che è stato prodotto da Paolo Benvenu. Band fiorentina che ha lasciato anche una traccia del suo passaggio sulla parte dei commenti di myspace.com/eclettica dicendo che ascoltavano il podcasting proprio in quel momento. Mi fa piacere pensare che magari possano anche riascoltare in futuro proprio questa parte di Eclettica, podcasting di cui trovate le istruzioni proprio lì sopra su myspace.com/eclettica. E ora proseguiamo con Malcolm Middleton, uno dei due Arab Strap che si è dedicato ad una carriera solista dopo lo scioglimento della band. There's a box full of shower gels I've left around the world in the toilets and bathrooms I've been in. chips of my youth falling off along the way. It's been a long time falling down. Fuck you, I love you, there you go. Three little words on a mobile phone. When are you coming home? When are you coming home? Don't wanna be alone. Careless with my friends, even harder on myself. There's a few stars in the sky of Kel. Pieces of my heart broken off along the way. It's been a long time falling down. Fuck you, I love you, there you go. Three little words on a mobile phone. When are you coming home? When are you coming home? Don't wanna be alone. Answer. starting tonight. Diamond Dancer, Diamond Dancer. Eclettica. Stagione numero 13, settimana numero 32, volume numero 1. 120 Days. Anonimo FTP. Youth Group. Dilith. Efterklang. Mercy Miss Monroe. Halfkausen. ELP con i Mars Volta. The Blow. Junior Boys. Muriel. Malcolm Middleton. Bill Callahan.